Io ho dei ragazzi speciali, ho una società che è speciale e, come ho detto prima, penso anch'io di essere speciale. No, io mi sento normalissimo, io sono il normal one. Il normalone, detta insomma. Il normalone sembra un po'... No, sembro sovrappeso, visto che un po' ci tengo la linea, insomma. I'm European champion, so I'm not one of the bottle. I think I'm a special one. Tutti convocati di Carlo Genta. Vabbè, vi do il numero di telefono, mi chiamate tutti dopo, quindi faccio un attimo. Ma Giorgio sta bene, ha recuperato, vediamo un attimo, voglio parlare con lui prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, anche perché io posso avere un pensiero, poi bisogna sempre che collimino, no, gli interessi della squadra, del giocatore, e gli interessi miei, che sono quelli della squadra, quindi faremo un'attenta valutazione. L'importante è che Giorgio sia uscito fuori da questo incubo, no, da questo brutto infortunio. A proposito di infortuni, faccio gli auguri, glielo ho fatti personalmente, però facciamo gli auguri a Simone Pepe, che ha avuto ieri questa operazione. Per fortuna sono state asportate via queste calcificazioni, lo aspettiamo quanto prima. Niente, vediamo poi l'allenamento che cosa ne esce fuori. Due cose, Antonio. La prima è: come mai, al di là del fatto che quest'anno avete anche la Champions League, le partite meno belle quest'anno le avete giocate contro le squadre più forti, il Milan, l'Inter, la Lazio, l'hai citata anche tu prima. La seconda è... E dunque abbiamo sentito parole in diretta della conferenza stampa di Antonio Conte, che sta parlando in questa vigilia di Napoli-Juventus, la partita dello scudetto, se vi piace così. 800 24 00 24, numero verde. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltrini in regia. Dato che io faccio pena, come scrive un ascoltatore via SMS, mi sono portato i rinforzi, cioè Massimo Callegari da Mediaset. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio, tanti auguri. Quanti sono? 30? Uno. Happy birthday. Ah, in realtà io sono Peter Pan, come tu sai. Dunque Massimo, Napoli-Juventus, la Juventus ha 2 risultati su 3, la faccia di Conte è bella rilassata, quella di Mazzarri probabilmente la vedremo dopo. Juventus 2 risultati su 3 per fare la polizza di assicurazione sulla Champions League o sul suo futuro in Champions League. Giocherà Pandev, un po' per necessità, un po' per cabala, perché porta buono. Arbitro Orsato, giusto, come sì, dicevano migliore tutti. Della stagione, migliore della stagione precedente, Juventus 3 Napoli 0 dell'anno scorso, ma non ci fu partita. Quindi, anche se Mazzarri provò ad attaccarsi ad alcuni episodi, quando prende i 3 fischi, 3-0, è meglio stare zitti sull'arbitro, a mio parere. Sì, sicuramente, poi insomma si è parlato anche troppo di questo, e soprattutto si è rimasti molto sui precedenti, su Pechino, su altre situazioni di questa stagione che hanno coinvolto Rizzoli con il Napoli o con la Juventus. In realtà bisogna partire dal valore dell'arbitro, al di là di ogni dietrologia che fa parte del nostro popolo, ma ci siamo abituati, e il valore dell'arbitro è sicuramente migliore quest'anno, quello di Orsato, rispetto a Rizzoli, che pure arbitrerà Milan-Lazio, che è un'altra partita importantissima per questo campionato. Ed è pur vero che quando arbitrano all'estero sono molto più sereni, molto più rilassati. E come ha detto Papa Resta oggi su Corriere dello Sport, questa partita è più difficile da arbitrare di una finale di Champions dal punto di vista della pressione. Sì, è certo. Vero. È così. Sentiamo cosa sta dicendo Conte. Forti sulla carta, abbiamo vinto noi. Quindi è il campo l'unico giudice che può dare delle sentenze. Ecco. Noi ci auguriamo anche quest'anno che vinca la migliore, perché è giusto che sia così. Ma è come mai? Perché affronti squadre di qualità, che hanno qualità. Tu affronti l'Inter, Milito, Palacio, Cassano, qualità allo stato puro. Affronti il Milan, Robinho, Shaarawy, Boateng, adesso anche Balotelli, è qualità allo stato puro. Cioè, quando affronti la Roma, affronti Totti, Lamela, Osvaldo, e qualità allo stato puro, Pjanic, De Rossi. Cioè, sono squadre di grandi qualità. E intanto ne ha perse 4, mica poche, eh? Sì, è vero, ma la Champions ha inciso sicuramente. Dopo, soprattutto, gli impegni di Champions, la Juve ha giocato malissimo con il Milan e con la Roma. E il suo gioco è stato un po' decodificato, c'è meno effetto sorpresa rispetto all'anno scorso, però rimane nettamente la squadra che gioca meglio, con più intensità, con più compattezza. Io all'andata ero allo stadio perché mi piace ripetere che una partita vista allo stadio ne vale 10, vista in televisione, per quello che riesci a vedere e interpretare. E la differenza, al di là del fatto che la Juve vinse negli ultimi 10 minuti contro il Napoli e poteva terminare tranquillamente a 0-0, fu proprio nella compattezza, nell'organizzazione. Cioè, si vedeva una squadra in campo più organizzata rispetto al Napoli. Questi incroci li sbaglia. Fino adesso il punto debole del Napoli è che comunque questi incroci scudetto, questi incroci che ti possono cambiare la vita, li ha quasi sempre sbagliati. Ma si dice, no, il principio di realtà, cioè alla fine se ci sono più situazioni che ti portano ad avere un valore in un campo professionale, in un altro, evidentemente il tuo valore è quello, almeno fino a quel punto. E se Napoli ha avuto più occasioni per arrivare lì, avvicinarsi, addirittura superare la Juventus, e non è riuscito a farlo né ad approfittare dei passi falsi della Juve, evidentemente gli manca qualcosa. Eh sì, 800 24 00 24, a noi non mancheranno certo gli amici convocati come ogni giorno, messaggi 349 238 6666. Prima di sentire il traffico, però, io voglio risentire Orei, che non è Pelé, è il Pibe de Oro, Diego Maradona, su questa partita, su Napoli-Juventus, che non vedrà allo stadio, perché è arrivato, si è fatto vedere, ha fatto la Rockstar, questa conferenza stampa in cui si è tempo di candidature, no? Ci sono un sacco di poltrone vacanti in Italia, da quella del Sommo Pontefice a quella del Primo Ministro. Maradona si candida per una panchina, che è quella che attualmente è occupata da Mazzarri, ma fino a quando non si sa, anche perché Maradona ha detto: ma sento che lo vuole la Roma o che lo vuole l'Inter, perché no? Perché no Mazzarri? Dieghito. Che la Juve vince lo scudetto, quello si sta per vedere. Il Napoli deve stare lì alla caccia della Juve. Perché non ti credere che la Juve è più del Napoli, eh? No, non è più del Napoli, solo che la Juve è pratica, arriva una volta e fa due gol. Vedo un Napoli ben messo in campo, forse oggi deve essere più attento, più costante nel gioco, più aggressivo, perché c'è giocatori per andare più in avanti che in difendersi. La difesa a volte soffre. Tutti convocati. Io ringrazio Franco Piazzarida e Roberto Scaltritti, ma tanto il mio compleanno non esiste, non parliamone più, c'è una volta ogni 4 anni, quest'anno no, rimango sull'isola che non c'è. Caro Massimo Callegari, c'è Franco dalla provincia di Vicenza e poi voglio divertirmi un po' con l'angolo del fantasceicco, questo dopo. Franco, buongiorno. Buongiorno. Io non volevo parlare di calcio, volevo parlare di mondiali di fondo. Sì, anche noi volevamo parlarne ieri. Volevamo parlarne ieri, avevamo un appuntamento, poi è andato bucato, ma recupereremo. Disastro totale. è un disastro annunciato, visto che fra l'altro il commentatore della Rai Vanoi era quello che aveva rifiutato Dario Colonia, perché Peter Morigli era molto più forte di lui. Poi abbiamo visto come è andata a finire. Una federazione che non promuove assolutamente i giovani da anni, perché se pensi che vivo su un posto che a tre quarti d'ora c'è il più grosso centrofondo del sud Europa e non si fa assolutamente reclutamento in zona qui. Anzi, io avevo i figli che volevano fare le gare di fondo, alla fine ho dovuto dirottarli su atletica e pallavolo, perché non si può, non ci sono società che fanno questo. Ma Franco, io credo che disastro annunciato, siamo anche alle prese con un non facile ricambio generazionale, un momento in cui passiamo da una lunga generazione di atleti, anche veterani, che sono stati per molti anni fenomeni. Adesso siamo in una fase di ricambio generazionale in cui nulla sembra funzionare più. Probabilmente bisogna trovare altre strade. Una debacle come questa avrà dei padri, e vedremo se questi padri alla fine pagheranno per una crescita del fondo, che mi sembra sia un movimento del fondo che mi sembra sia da rifondare per ritrovare, e ci vorrà molto tempo, la continuità con il passato. Sentiamo anche il primo ascoltatore da Napoli, Massimo. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno dottore, buongiorno. Buongiorno, ma se non segna Cavani chi fa gol? Questo è normale, questo è normale, dipendere da Cavani è normale. Sì, è vero, però le volevo chiedere un minuto solo, di mezzo minuto, per una cosa che a noi napoletani, noi abbiamo un bar al centro di Napoli e vengono tanti torinesi, juventini, milanesi del nord qui a visitare la nostra città e diventiamo amici, parlano bene di Napoli, di tutto, ma perché poi dobbiamo sentire dei cori che anche nelle partite che non riguardano la squadra del Napoli calcio, come la Juve Siena, viene espresso questo coro a riferimento al Vesuvio, che dice lavali col fuoco, lavali col fuoco. Oltretutto altre squadre come l'Inter, come la Lazio, sono state multate per argomenti simili a questo. Invece noi il nostro non è stato nemmeno citato nelle trasmissioni dai giornalisti. E questo a noi dispiace, perché quelli sono pochi, quelli là che fanno creare queste cose, sono poche persone, perché noi qua abbiamo torinesi, milanesi, veneziani, siamo grandi amici, loro amano Napoli. Ma voi avete amici di un certo profilo, non animali, che cantano queste cose, perché di animali si tratta. E ha ragione Gullit in un'intervista che leggevo l'altro giorno, e Gullit diceva: ma non mi sembra che in Italia il problema razziale sia diverso rispetto ad altri paesi, anche perché voi siete abituati al razzismo tra nord e sud, col razzismo tra nord e sud fate i conti dalla notte dei tempi. No, Massimo? Sì, no, più che altro che non si capisce anche nelle multe che vengono date dal giudice sportivo la differenza tra cori razzisti, appunto, per questioni interne nazionali rispetto a questioni di colore della pelle. Ci sono delle differenze anche economiche che in realtà non dovrebbero esistere, perché va condannata e punita l'atteggiamento negativo, va condannato e punito esattamente allo stesso modo, no? Certo. No, ma poi insomma è proprio povertà di spirito, perché si può essere goliardici, e io sono per la goliardia negli stadi, i fischi a Balotelli domenica ci stavano da parte della curva interista, poi qualcuno, qualche poveretto è andato oltre. Giulietta Nazzoccola è un capolavoro d'arte contemporanea, secondo me, no? E ve lo ricordate tutti, ha dato anche il titolo ad un libro. Si può essere goliardici in modo spiritoso senza arrivare alla volgarità o all'imbecillità, più alle spremute di imbecillità. Max da Genova, e poi voglio parlare dello Sceicco, perché mi sta qui Sceicco di Roma. Buongiorno. Pronto? Dica. Sì, sempre in tema di razzismo, io sono un tifoso laziale e ho sentito ieri di sfuggita che la Lazio insomma giocherà il prossimo incontro in Europa a porte chiuse, mi pare di aver capito, per una questione sempre di saluti fascisti o cori razziali, insomma dei tifosi che nella Lazio, insomma, questo genere di caratterizzazione è presente da sempre. Sì. E io, in quanto laziale, sono contento. E sono contento di sapere queste persone a casa, lontane dalla propria squadra, a soffrire e a farsi rodere il fegato. E spero che questo serva a condizionarne il comportamento in futuro. Sì. E volevo anche dire un'altra cosa, che sono rimasto molto piacevolmente sorpreso dal fatto che in occasione dei tre rigori assegnati contro la mia squadra nella trasferta tedesca contro il Borussia, non ho sentito, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, alcuna lamentela da parte né della società né dell'allenatore, e tutti e tre i rigori oggettivamente mi sembra ci fossero. Sì. E quindi perché la sottolineerei, no, del quale vado piuttosto, no, non ma, dico fiero. A parte il fatto che i rigori ci stavano tutti, poi quasi mai si sentono lamentele a livello europeo, perché finiscono nel vuoto e nel nulla, non sono tentativi di condizionamento come sono in Italia, non sono tentativi. A parte Mourinho che fa il suo gioco su altra scala, però. Però quanto alle porte chiuse della Lazio, mi sembra un provvedimento più che normale, perché io sono stufo di sentire Lotito dire che noi non c'entriamo, sono quattro idioti, non c'entrano con il calcio, non c'entrano con la Lazio, e invece non è così, ed è giusto prendere provvedimenti nei confronti del club, a differenza di quanto dice l'ascoltatore, a me dispiace non per quelli, per i deficienti o i delinquenti che staranno lontani dalla loro squadra a rodersi il fegato, quanto per gli altri, ma questa è una banalità. Beh sì, effettivamente sì, perché poi pagano, la maggior parte di quelli che pagano sono incolpevoli, però evidentemente poi era una situazione che già la UEFA monitorava da tempo, e c'erano già stati altri episodi, quindi era tutto sommato anche prevedibile questa sanzione, se non nella durezza delle due giornate. Comunque la sostanza della punizione era attesa. Sì, no, stavo leggendo questo. Lo sceicco, ma prima stavo leggendo questo per documentare anche la goliardia fuori luogo, la stupidità. Giulietta Nazzoccola, ma anche tua madre se la cava bene. Davide da Verona, questa è goliardia, ma sicuramente non la leggi. No, questa è idiozia, caro Davide. Se vuoi mi telefoni e facciamo due chiacchiere, ma civili. Oggi in conferenza stampa Conte dice: nel 2013 non ci possono più essere cori razzisti negli stadi. È vero. Non dovrebbero più esserci, di fatto ci sono. 800 24 0024, un numero verde, speriamo che chiami anche Davide da Verona. Dunque, Maradona allenatore, tu come lo vedi? Male. Sì, con tutto il rispetto e l'ammirazione sconfinata per un mito della mia infanzia, adolescenza e anche oltre, però male, perché purtroppo l'abbiamo visto all'Opera Mondiale, ha fatto cose tecnicamente Maradona, sballate. Maradona allenatore con un allenatore vero accanto, ma no, impossibile. Da chi può prendere ordini Maradona? Non può, ma qualcuno che gestisce la squadra, no, non ci credo. Quali qualità potrebbe trasmettere lui anche nella gestione? Carisma sì. Esperienza esperienza di no, in panchina no, panchina no. Senti, invece non ci credo. E poi non sta seguendo il nostro campionato, perché ha detto due o tre cose. Lui ha detto che la Juve fa un tiro e segna due gol, e la squadra che ha creato più occasioni, esatto, e ha fatto meno gol in percentuale. Non avrà visto, non avrà guardato con attenzione. Che al Napoli manca aggressività, che è una delle sue qualità migliori. Sì, vabbè, dai, Diego il calcio lo vede a modo suo. Può dire tutto, e ha quasi sempre ragione, no? Per partito preso. Lo sceicco lo facciamo? Facciamo lo sceicco, perché allora l'angolo dello sceicco io lo vorrei fare tutti i giorni. Lo sceicco al Kudumi, che ogni giorno ne salta fuori una diversa. Deve comprare la Roma, abiti in un bilocale a Perugia, pare abbia ereditato una fortuna. Ma c'è chi avanza chi ha dei debiti nei confronti. Sai che? Addirittura? Sì, deve dei soldi a un ex ciclista. Ma perché mi fanno tutte queste feste? Sei il figlio dello sceicco? No. Si sono accorti che io sono napoletano. Sceicco napoletano. Amico mio, i meridionali all'estero si sono sempre piazzati. c'è questo ciclista degli anni 60-70 che ha fatto molti giri d'Italia da gregario, si chiama Brugnami, e appunto rivela un debito che ha nei confronti dello sceicco Kuddumi. Quale? Questa storia è venuta fuori dal semplice sistema di alcuni amici su Roma. Mi hanno detto di questo sceicco che era fuori e c'era questa situazione su Perugia di questa caro istinto, il che praticamente si gli dava una mano in quanto sarebbe rientrato dalla Svizzera, che aveva i patrimoni in Svizzera, e poi mi avrebbe saldato il conto alle onoranze funebri. Questi signori di Roma che gravitano nell'attività sportiva e di cui mi hanno chiesto un aiuto a trovare delle pompe funebri, e mi sono rivolto al Vincaretti di San Terenziano. Per non far brutta figura, i tempi percorrono, ho cercato di saldare il Vincaretti. Io sono rimasto al palo, siamo intorno ai 10.000 euro. Dunque 10.000 euro per un funerale ancora da rimborsare dal probabile prossimo azionista, possibile o forse no, azionista della Roma. Tutti convocati. Allora, prima della Cario Story, altra cosa divertente da commentare con Massimo Callegari qui vicino a me, e prima di un libro da divorare che poi vi illustrerò con l'autore, Antonio da Napoli, 800240024, sveglia ragazzi. Eccomi qua, sono sveglio, buongiorno, salve. Bravo. Buongiorno e complimenti. Grazie. Senta, volevo solo dire una cosa, io stavo ascoltando i vostri, diciamo, il vostro giudizio sul Napoli, ovviamente, di cui io sono tifoso, però c'è una cosa che volevo puntualizzare. Diciamo che se il Napoli dovesse comunque vincere venerdì, cosa probabile, io poi tutto questo gap, queste polemiche, questo Cavani, non lo vedrei più, sinceramente. Penso che cambierebbe moltissimo poi la situazione. Ecco, quindi volevo capire voi quale sarà il vostro giudizio se il Napoli dovesse vincere venerdì sera. Campionato riaperto, la Juventus più vicina, difficile però riuscire a farlo senza i gol di Cavani, quindi, ma lo dimostrano i numeri, no Massimo? Sì, beh, chiaramente poi quello sarebbe un discorso, oltre che di numeri, anche psicologico, di pressione che tornerebbe sulla Juventus, però sarebbe sempre un meno 3, poi bisognerebbe vedere anche la differenza negli scontri diretti, se sarebbe meno 3, meno 4, insomma. Andiamo un po' in là, però al di là di questo cambierebbe il quadro psicologico, la sostanza dei giudizi a oggi è quella che abbiamo espresso, messa in maniera oggettiva, e quando tu parli di numeri, oltre a quelli di Cavani che sono incredibili, oltre al fatto che la squadra ha comunque disputato una stagione di alto livello, notavo che i cali del Napoli, che sono stati abbastanza netti, tipo nelle ultime 5 partite il Napoli non ha vinto, sono coincisi con gli impegni o di Coppa Italia o di Europa League, 4 sconfitte a dicembre dopo la sconfitta in casa con il PSV, all'inizio della stagione 3 sconfitte in 4 partite proprio, compresa quella contro la Juventus, nonostante in Europa League abbiano giocato molto spesso le seconde linee. Questo sì, credo sia un altro aspetto che ha inciso sulla gestione della stagione, ed è abbastanza evidente questo problema per il Napoli. Sì, e così hanno deciso di esautorarsi, di sì, farsi però, fuori. Sì, però non è che ci abbiano guadagnato in campionato, no? Niente. No, per prima, ora no. Durante. No, per ora no. Durante no, di sicuro. Puntano appunto proprio al futuro, quando la Juventus indubbiamente avrà la Champions League da gestire. Sì. No? Il Napoli avrà da gestire soltanto il campionato. È chiaro che se riescono a vincere questa partita e arrivare alle soglie della, portare la Juventus alle soglie della Champions League con 3 punti, allora lì è vero, si possono fare alcuni calcoli diversi. Vincenzo da Piacenza. Ci sono io, Carlo. Vincenzo, ci sei tu? Sì, certo. Ah, grazie Carlo. Grazie a te. Mi ascolto sempre, ma non intervengo mai. No, volevo dire che adesso la Juve abbiamo 6 punti, no? Sì. Bene. Se dovesse però se dovesse vincere il Napoli e vince la Juve, se calcoliamo bene matematicamente abbiamo 6 punti di differenza, cioè se vince il Napoli andiamo a 3 e se vince la Juve andiamo a 9, sì. O no? Eh beh, sì, così. È vero che matematicamente abbiamo 6 punti di vantaggio, cioè ci sono in gioco 6 punti, no? Come sempre capita nei confronti diretti, che poi, come giustamente sottolineava Massimo Callegari, sarebbero 9, che però diventano 10 per effetto dei confronti diretti, no? Va bene. Io comunque, io sono così, voglio dire questo, vuoi fare gli auguri comunque a entrambi, la Juve, io sono diventato dalla nascita, ma anche il Napoli, dai, insomma, dato che siamo esseri umani, dobbiamo... dobbiamo guardare un po' il gioco, e anche a Carlo Genta auguri. E anche a Dino Zoff, sei in grande compagnia, 70 anni Dino Zoff, grande doppio anni. Ex anche di Juve Napoli, sì, oltre che quello che ha alzato la Coppa del Mondo, la metà dei miei anni a Dino Zoff, un ragazzino. Tu 30 qualcosa, lui 70. Lascia stare, va, fa il bravo. Gennaro, provincia di Salerno, buonasera. Volevo fare i complimenti ovviamente per la trasmissione e volevo dire una cosa che non ce la faccio più a tenere. Io sono un super tifoso del Napoli, ma nonostante ciò non vedo l'ora che Mazzarri vada via. Non ha dato il benché minimo gioco a questa squadra. Ma no. Riesce solo a stare chiuso e a sperare che i tre lì davanti facciano il miracolo. È una sofferenza tutte le partite. Capisco gli altri tifosi che sperano di vincere domani sera, è ovvio che spero anch'io, ma sarebbe comunque semplicemente l'ennesimo miracolo di qualcuno di quei tre, perché proprio gioco non ce n'hanno. Gennaro, non sono d'accordo con lei, e i miracoli si fanno una volta, non si fanno per svariate stagioni. Invece Mazzarri ha fatto un lavoro eccellente con il Napoli, ha costruito una squadra che quando gioca è anche molto bella da vedere. È chiaro che non gioca come il Barcellona, è molto distante dal Barcellona come filosofia e come impostazione di gioco, però ha costruito una cosa grande, secondo me, Walter Mazzarri. Intanto ho preciso Zoff 71 anni. È vero, anche perché insomma i progressi sono stati costanti e la squadra, insomma, l'anno scorso in Champions ha fatto delle cose impensabili. Quando abbiamo visto il sorteggio tutti pensavamo che il Napoli sarebbe crollato nel girone con il Bayern, con il Chelsea, con il Villarreal, invece ha giocato alla grande con il Chelsea negli ottavi, è anche arrivato un passo dalla qualificazione, ha eliminato il City. E poi qualche limite, come dicevi tu, nel palleggio, dipende anche dagli interpreti, probabilmente ci fosse stata una valutazione più comune, più organica, anche nell'acquisto dei giocatori nel corso di questi anni, anche nel corso dei mercati invernali, si sarebbe migliorato un po' di più la qualità. Vargas è stato utilizzato sempre fuori ruolo, Rolando del Porto praticamente non ha mai giocato nella sua vita a tre ed è stato utilizzato all'improvviso, insomma qualche centrocampista di qualità in più si poteva inserire, però evidentemente l'equilibrio della squadra secondo l'allenatore è questo, e il rendimento di Cavani, che è diventato un super campione, lo si deve certamente alla sua professionalità, al suo talento, alle sue doti, ma anche al modo in cui Mazzarri lo ha valorizzato. Gli ha permesso di brillare, non c'è dubbio, Massimo. Marco Napoli. Buonasera. Salve. L'ascoltatore di prima mi ha anticipato in merito alla questione tecnica della mancanza di gioco, però vabbè, comunque... come ha detto lei, i risultati comunque sono arrivati ed è quello che... Ma io non vedo neanche la mancanza di gioco, eh? No, attenzione, si intende nel senso che la mancanza di un regista, perché Hiller sicuramente non lo è, come non lo può essere, diciamo, Zemaili nel momento in cui gioca, però indipendentemente da questo, come avete detto, si fa con l'aggressività, si sopperisce poi eventualmente anche ad alcune carenze tecniche che giustamente sono palesi, però io intendevo anche intervenire per un'altra cosa. I campionati però si vincono in modo diverso, anche diciamo noi tifosi del Napoli, che come diciamo abbiamo sempre un odio sportivo verso la Juve, bisogna dare atto alla dirigenza juventina, allo staff tecnico, che loro sono un gradino, diciamo, un gradino superiore al Napoli e a tante altre squadre. Ma io credo che la Juventus sia un gradino superiore al Napoli come profondità di organico e come qualità nella profondità dell'organico, quindi sembra che abbia qualche giocatore in più, mi sembra che abbia più talento, che sia tutto sommato più forte nelle individualità, quindi questo è il senso del discorso. Bravi dirigenti va bene, ma la Juventus è un po' più forte rispetto al Napoli nel suo organico complessivo. C'era una volta un giocatore che ha provato a tornare per dare una mano all'Inter. Non è andata benissimo. John Kerry. Io credo che l'Inter con l'infortunio di Milito abbia cercato di vedere se c'era qualche prototipo che potesse fare al caso nostro. Sicuramente stiamo parlando di giocatori svincolati entro una certa data, quindi la cerchia si restringe un pochino. Adesso i nostri direttori osservatori hanno individuato questo profilo di calciatore che è John Kerry. Sono informato anch'io. Questo qui fa una prova di un paio di settimane e poi decidiamo. No, il tecnico ha detto lo fate o vado via. Concertazione c'è sempre, non esiste qualcuno che dica fatelo e chiuso. Come stai? Bene. Sei in forma? Sì, sto bene. Com'è questa opportunità dell'Inter che è uscita? Se la vita. Sì, sto bene. Bisogno di allenare un paio di settimane con la squadra, ma mi sento bene. Questi mesi cosa hai fatto? Viaggiando molto e fatto un film. Ci sei cascato, scemo. Già rispedito a casa. Esperimento Kerry è inevitabile. Non so se hai visto su YouTube il video di Kerry con le due smandrappone tutte tatuate. No, poi te lo faccio vedere. Lo sono perso. Vabbè, non sei aggiornato su queste cose, poi te lo faccio vedere. Tutti convocati. Allora, caro Massimo Calegari, adesso ti presento un amico, uno lo conoscerai già, uno dei giornalisti che leggo più volentieri, sia quando scrive sulle pagine di QN, sia quando scrive, come in questo caso, dei libri. Leo Turrini, buongiorno. Ciao carissimo, ciao a tutti. Buongiorno, ciao. Convocato Leo Turrini per raccontarci di questo libro appena uscito, Il pirata e il cowboy. Armstrong e Pantani, le storie maledette, tornate maledettamente d'attualità. Sì, guarda, io ho voluto scrivere questo testo perché credo che sia uno dei casi più straordinari di manipolazione della realtà, no? Che è una delle problematiche con le quali oggi in Italia ci confrontiamo quotidianamente, nel senso che chi ha un po' di memoria ricorda che all'alba del nuovo millennio Marco Pantani è stato presentato e descritto come il simbolo del male, di un ciclismo che, diciamo così, faceva ricorso a trucchi, imbrogli e quant'altro, mentre il cowboy, cioè il texano Armstrong, ci veniva proposto come il simbolo del bene, no? Quello che aveva battuto il cancro, poi meritoriamente si era impegnato contro la malattia e non solo, era diventato il campionissimo della bicicletta. Abbiamo scoperto troppo tardi che le cose non stavano così. Io ho scritto una frase, appunto, è un po' se da bambini ci avessero detto che Cenerentola in realtà era più cattiva delle sorellastre, no? Ecco, quindi secondo me è una riflessione che merita di essere fatta, perché troppo spesso noi ci inganniamo da soli. Sì. Massimo Calegari, sì. La vicenda Armstrong a me ha colpito in maniera feroce, no? Perché guardarlo in faccia e sentirgli dire quelle parole è stata una coltellata. Io sono sempre stato grande ammiratore, grande tifoso di Armstrong. Io no. Tu no. Io no. Io, insomma, non sono caduto dal pero, perché sospetti ce n'erano tanti. Non mi ha mai trasmesso nulla, mentre Pantani mi trasmetteva tanto. Poi adesso non, perché sai, io non è che sono uno... di facili elogi, però sono cresciuto con Leo Turrini perché qualche anno in meno. Sei troppo buono. No, io sono anche con lui, nel senso che io sono di Ferrara, lui scriveva da tempo su Carlino, io lo compravo da piccolo, lo leggevo, e poi mi ha fatto leggere uno dei pochi libri di sport che non seguo e che non mi appassionano particolarmente, che è quello su Enzo Ferrari, quindi colgo l'occasione per complimentarmi con lui. E... No, sei troppo buono davvero. E invece no, Armstrong appunto, non mi ha, a differenza di Pantani, che mi ha fatto emozionare moltissimo, Armstrong non mi ha mai trasmesso nulla. Quindi... Vedi, io sono d'accordo con te, credo che Armstrong sia davvero l'emblema di una mistificazione collettiva, non perché andasse piano in bicicletta, io spiego nel libro che molto probabilmente Armstrong, il cowboy, forse avrebbe vinto lo stesso se tutti si fossero comportati allo stesso modo, perché né Pantani né Armstrong erano estranei a una certa cultura che imperava nel mondo del ciclismo. Quello che è devastante è come l'omertà sia stata usata a senso unico. Cioè, quando il povero Pantani è finito nei guai, nessuno si è alzato per dire: oh, guardate che le cose che prende lui le prende anche chi arriva ultimo, no? E quando Armstrong veniva esaltato, celebrato, tutti facevano finta di non vedere, perché Massimo ha ragione, io lo racconto nel libro. Addirittura prima ancora che lui vincesse il suo Tour de France, c'erano testimonianze che attestavano come questo americano facesse uso e abuso di sostanze proibite. Cioè, davvero, guarda, io ho vissuto l'esperienza di scrivere questo libro come un debito da pagare, purtroppo troppo tardi, nei confronti del pirata di Cesenatico. Non perché lui fosse migliore, ma perché venne trasformato nell'angelo del male, nel Lucifero caduto dai cieli, no? Sì. Stavano tutti zitti. E guarda una cosa, Pantani è stato l'unico e ultimo ciclista che al Tour ha staccato Armstrong in salita nel 2000, e com'è come non è, nei tre anni successivi, finché Marco è stato vivo, al Tour non l'hanno invitato più, sempre adducendo pretesti, dicendo: ah, ma non è degno, no? Poi vai a vedere quello che si è scoperto dopo, tutti quelli che correvano il Tour al posto di Pantani erano, non dico peggio di lui, ma quantomeno come lui. Ecco, è anche vero, quando Leo Turrini dice debito di riconoscenza, no? Probabilmente molti di noi, molti dei nostri colleghi, anche noi stessi, ci possiamo sentire appunto in colpa per non aver insistito nel ricercare, denunciare certe cose. Però è anche vero che credo, no, nella nostra professione bisogna attenersi ai fatti, è quello che noi sappiamo, conosciamo, e a quello che è comprovato, perché purtroppo arriviamo a quel limite, no? Allora c'è una cosa che io proprio ho citato subito all'inizio del libro: sia il pirata che i cowboy, attenzione, i controlli antidoping dell'epoca li hanno superati tutti, quindi lì ci dobbiamo fermare. Perché lo stesso Pantani, quando ci fu il famoso episodio di Madonna in Campiglio, non fu accusato di doping, venne bloccato a tutela della sua salute. Il problema però qual è, o qual è stato, speriamo che le cose siano migliorate, che in quella situazione, per quell'episodio, Marco Pantani è stato trasformato in un mostro. Guarda, io per fare sto libro mi sono andato a riguardare l'ora di intervista che lui fece a Gianni Minà, una settimana dopo Madonna di Campiglio. È uno dei documenti più alti della televisione italiana, perché Pantani in quell'intervista non nega niente, perché non dice non è vero, dice io faccio quello che fanno tutti, no? E aggiunge: e se non lo facessi mentre gli altri lo fanno, chiaramente mi troverei in una condizione, come dire, di inferiorità, no? Quindi lui la verità l'ha detta, solo che è stato lasciato solo a dire la verità. Così come Armstrong ha vinto 7 Tour di seguito, andava a tutte le televisioni a dire: io sono pulito, non mi sono mai dopato, e nessuno, in presenza di documenti, prove, non voglio dire sospetti, si prendeva la briga di metterlo in discussione. Guardate, è successo qualcosa di incredibile. Io veramente ho scritto questo libro con profondo dolore. Io c'ero alle Olimpiadi di Sydney, è l'ultima volta che hanno corso assieme, no? Sì. Allora, Pantani fu presentato alle Olimpiadi come quello che correva subiudice, il CONI sospettava di lui, eccetera. Armstrong era invece esposto sulla vetrina mediatica planetaria come l'eroe. Era Ettore contro Achille. Chiaro che Ettore avrebbe perso, no? poi purtroppo siamo arrivati anche alla tragedia, ma Achille ce l'aveva il tallone, sì. E si sapeva, e io sì. Devo dire da questo punto di vista, ma mi faccio colpevole anch'io, No, ma lui, siamo mica fuori, ma Armstrong era troppo potente, troppo ricco, troppo famoso, ed ha potuto godere di tante protezioni, è anche vero che si è messo in mano a un sacco di persone, perché ha trattato tutti da padrino, e quindi ha rivelato la sua verità, non ha fatto le cose di nascosto, ma ha rivelato la sua verità a una montagna di persone che poi sono quelle che l'hanno incriminato, tra compagni di squadra, massaggiatori, eccetera. Alla fine poi è impossibile, o almeno ci piace sperare sia così, è impossibile occultare la verità. Tu hai colto perfettamente nel segno, lui era il boss, no? Come noi vediamo in tanti film di mafia, quelli che sono, diciamo così, i picciotti del boss, lo sanno chi è il boss, no? Certo, certo. Finché stanno zitti, perché hanno convenienza a stare... È accaduto esattamente questo, è successo questo, e credo che, sì, insomma, un atto di coscienza, ripeto, cominciando da me, sarebbe doveroso. Lui alla fine ha detto in un'intervista a Oprah Winfrey: passerò il resto della mia vita a chiedere scusa a tutti, no? Sì. Sì, giusto, però c'è uno che è morto, come sappiamo, sì, per il quale le scuse arrivano troppo tardi. Leo, facciamo così, è appena arrivato, è fresco di stampa, lo leggo, poi se c'è qualcosa che non mi convince ti richiamo, e comunque ti richiamo lo stesso, perché sai che io sono un tuo fan, tu parli sempre bene di me, ma in realtà io sto su Radio 24 per sentire te, hai capito? Troppo buono, professore, grazie Leo Turrini. Ciao, grazie. A presto. Ciao, Marco, grazie a Leo Turrini. Alvarez si scontra con Palacio in allenamento e gli rompe due denti. Palacio in panca con il Catania, non vorrei essere un attaccante dell'Inter, mi scrivono dalla regia. Massimo Callegari, grazie, a presto. Grazie a voi, a presto. Franco Piantanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ci sentiamo domani alle 2. Ah, grazie Carlo. Happy birthday to you. Meglio soli che mal accompagnati, non è questo qui, anzi, assolutamente. Però voglio dire, non era riferito a me. No, riferito a tutti i gufi che girano. Comunque adesso al di là di tutto quanto. Quali gufi, presidente? Ma no, questi gufi, visto che noi abbiamo l'Aquila, noi combattiamo i gufi, lo sanno come funziona.